Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. This is my church. This is where I heal my hurts. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, la filosofia dal punto di vista di tutti gli animali, umani e non. Questa settimana parleremo di cinghiali domestici assassinati, della scienza che fatica a rinnovarsi, di religioni e di pellicce messe al bando. Restate con noi per la prossima mezz'ora. Dedichiamo questa puntata a Rino, un giovane cinghiale, anzi un ibrido fra maiale e cinghiale, nato e vissuto a Quilianio, in provincia di Savona. Rino era un animale conosciuto nella zona e anche nel mondo della rete, tanto la sua singolare storia aveva appassionato. Era arrivato, o probabilmente smarrito, da piccolissimo nel giardino di casa di una coppia di Quiliano e questa coppia lo aveva adottato. Rino era cresciuto in casa, poi si era spostato nel parco, nella parte recintata della proprietà, salvo spingersi anche oltre, nel bosco, per vivere la sua vita, trovare una compagna, ma sempre tornando a casa la sera, dentro il recinto. La sua era quindi una vita semiselvatica, dava confidenza agli umani, li accettava, senza rinunciare però alla sua indole. L'altra sera Rino non è tornato a casa e i suoi compagni umani si sono preoccupati. Hanno scoperto presto l'accaduto sulle reti sociali. Un cacciatore della zona aveva postato, compiaciuto, le foto di Rino crivellato di colpi, ucciso nel bosco, fuori dal recinto, quindi in un'area non proibita alla caccia. Un gesto inutile e crudele, ma perfettamente in linea con l'etica, chiamiamola così, della caccia, che rivendica un unico criterio da rispettare, le date fissate per legge, gli spazi ammessi per legge. Il cinghiale domestico, se esce di casa, può essere ucciso, come tutti gli altri. Il dolore dei familiari di Rino è stato grande. Hanno preferito non far conoscere il proprio nome, per timore che altri dei loro animali siano presi di mira, tanto sono stati sbeffeggiati per il loro dispiacere. La morale di questa storia non è nella malvagità del cacciatore che ha ucciso Rino, un cinghiale speciale, diverso dagli altri, ma nel fatto che tutti i cinghiali sono come Rino. Animali sensuali, capaci di sentimenti, desiderosi di vivere, come tutti gli esseri viventi. I could have kept my head down, I might have kept my mouth shut, I should have held my own, you need a horse and water and you watch him. Battles, rattle my cage with your shadow. I'm a bantamweight with a mouth full of feathers. Don't you know that what comes around goes around? I'm not that easy. I am not your horse to water. I hold my breath. I come around, round, round. Don't darken my doorstep again. Mixing up lemon and ginger, you're mixing up loose with wind. When you need a horse and water and you watch him drown. La scorsa settimana la LAV, Lega Antivivisezione, ha organizzato una manifestazione a Torino che ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sperimentazione scientifica sugli animali. Una pratica antica e tuttavia, come è noto, ritenuta ancora indispensabile e non sostituibile dalla grande maggioranza del mondo scientifico, nonostante i suoi numerosi aspetti problematici, soprattutto etici, ma non solo. La manifestazione, denominata Ci vediamo liberi, si è concentrata sul caso di sei macachi dell'Università di Torino, ma detenuti in quella di Parma, dove sono utilizzati per un esperimento che riguarda le menomazioni della vista. La LAV sostiene che i macachi saranno resi ciechi, almeno in parte, e poi uccisi. I ricercatori ribattono che gli animali non soffriranno, ma che ovviamente saranno uccisi al termine dell'esperimento, come prevede la legge. Sotto il profilo legale, tutto a posto. Sotto il profilo morale, tutto sembra invece più anacronistico, visto quanto è cresciuta nell'ultimo secolo la sensibilità verso gli animali. La LAV in realtà contesta anche l'aspetto scientifico della questione, sostenendo che la sperimentazione animale, più che una necessità, è un'abitudine, un sistema di potere consolidato, ormai da soppiantare con tecniche di ricerca più avanzate. È il parere anche di una parte degli scienziati. Il dibattito esiste, ma in realtà non sta avanzando granché, visto che chi detiene il potere in ambito scientifico sembra poco propenso ad accettare una discussione in campo aperto, includendo gli aspetti etici della questione e considerando l'ipotesi di investire i denari oggi utilizzati nella sperimentazione di vecchio tipo per far avanzare quella di nuovo tipo che non utilizza gli animali. Come spesso succede nella storia, le strutture di potere tendono a frenare l'avanzamento della conoscenza e della giustizia. La manifestazione di Torino, sostenuta da una raccolta di firme arrivata alla soglia delle 360.000 adesioni, è almeno servita a gettare un fascio di luce su pratiche per molti insopportabili e che si tende a tenere nascoste. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, hooker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Esistono molti modi di fare attivismo animalista. Abbiamo parlato della manifestazione di Torino per salvare i macachi, ma c'è anche chi punta su azioni più individuali. È il caso di recente di Angelo Vaira, formatore nell'ambito del cosiddetto pet training, in sostanza la relazione fra uomo e cane. Vaira ha camminato da Assisi a Roma in 11 tappe per consegnare a Papa Francesco un appello al fine di spingere il pontefice a rilanciare su scala globale la questione animale, mettendosi sulle orme di Francesco di Assisi. Vaira ha definito il Papa il più grande influencer del pianeta e vorrebbe guadagnarlo alla causa animalista. Il camminatore è arrivato a destinazione e pare che sia riuscito in qualche modo a far avere a Bergoglio il suo messaggio, ma il Papa non ha dato finora alcun segno di risposta. E non c'è da sorprendersi, sia per la particolarità, diciamo così, della proposta, poco ricevibile da Sua Santità, sia perché la questione animale è da sempre un tema scottante, o forse dovremmo dire irrilevante, nella dottrina cattolica. Gli animali non hanno l'anima e l'uomo è al centro del creato, come sappiamo. Per quanto Papa Francesco abbia corretto questa dogmatica con la sua enciclica Ecologista, Laudato Si, una correzione però solo parziale. Per cui una conversione del papato alla causa animalista al momento sembra francamente lontana. Diciamo che Vaira ci ha provato. Per chi volesse approfondire la questione animale nell'ottica religiosa, consigliamo comunque la lettura dell'ultimo numero della rivista Confronti, dedicata per l'appunto a questo tema, in chiave interreligiosa. La rivista si può acquistare attraverso il sito confronti.net. Fra i numerosi articoli che spaziano fra l'induismo e il buddismo, l'ebraismo e l'islam, segnaliamo quello di Pierluigi Pizzaballa, arcivescovo attivo a Gerusalemme, titolato per l'appunto San Francesco e il lupo di Gubbio, e in particolare quello di Goffredo Fofi, saggista e critico, storico amico della non violenza, che si chiede perché Dio non è vegetariano, titolo del suo intervento, ma anche di un libro intervista con Isaac Bashevich Singer, grande scrittore ebreo, premio Nobel per la letteratura, intellettuale attento alla questione animale, più volte entrata nei suoi romanzi. Già il sottotitolo dell'articolo di Fofi contiene un abbozzo di risposta a quella domanda. Anche la religione, si legge, ha dovuto confrontarsi con il problema della vita animale, non ultimo al fine di giustificare la violenza perpetrata dall'uomo. Settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton, si cimenta con il difficile impegno di abbinare la ricetta della settimana a una delle nostre notizie. Stavolta è toccato a Papa Francesco. Sentiamo che cosa ha pensato di proporci nel suo spazio etico gastronomico. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Honey, come and go with me back to the West Indies. Baby, can't you see I'm losing my pep and my energy. What I need is... E a proposito del Papa, ho scoperto che anche lui si è messo a fare concorrenza a chi, come me, lavora in cucina da oltre 30 anni. Già, perché come direbbe Benigni, Bergogliaccio ha pubblicato un libro di ricette condite di aneddoti relativi al suo rapporto col cibo e la cucina. Il titolo ve lo dirò quando lui citerà quello del mio, mi pare equo. Fra le tante cose si scopre la passione di Francesco per la milanesas, ovvero la versione argentina della cotoletta alla milanese. Quindi di tutta risposta, per il santo collega, la versione senza crudeltà. Gli ingredienti per 4 persone della milanesas sono 100 g di farina di frumento, 50 g di farina di grano saraceno, 150 g di farina di ceci, un pizzico di cumino in polvere, del prezzemolo, un cipollotto fresco, un cucchiaino di curcuma in polvere, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, olio extravergine di oliva, sale e pepe e pan grattato. Drink the coconut water, the jelly. Drink the coconut water, it is a builder. Drink the coconut water, I cannot get in America. What is the tonic man? Drink the coconut water. Preparate una pastella con 50 g di farina di frumento, il grano saraceno, 50 g di farina di ceci, la curcuma in polvere, un pizzico di sale, pepe e un cucchiaino di olio e diluite con acqua. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto cremoso non troppo liquido. Aggiungete il bicarbonato e un cucchiaio di aceto di mele. Mettete un filo d'olio in una padella antiaderente e realizzate una sorta di pancake con l'impasto. Con questa dose ne dovreste ottenere 2. Fate cuocere da entrambi i lati e lasciate raffreddare. A parte, preparate una pastella più liquida con 100 g di farina di ceci e 50 g di farina di frumento, acqua, sale, cumino e un cucchiaio di olio. Aggiungete il cipollotto e il prezzemolo tritati finemente. Tagliate la frittella di farina a metà con un taglio a S in modo da formare due cotolette per ognuna. Passate nella pastella facendo colare quella in eccesso e poi nel pan grattato. Premete bene, avendo cura che la panatura aderisca completamente. Friggete le cotolette in olio ben caldo, scolate e servite con un pizzico di sale in superficie e, se lo gradite, uno spicchio di limone. E, è il caso di dirlo, andate in pace. You kind of fill up my mind. It's just the before and it lasts forever. It's just the before, they just fuck my mind. I have these hands beating with love feet. Da qualche settimana Massimo Raviola, veterinario torinese, autore del libro Che razza di bastardo, ci propone alcune storie animali che rendono tangibile il tema che gli sta a cuore: i drammatici effetti della selezione razziale negli animali domestici. Una pratica che passa ormai inosservata e spesso è anzi legittimata da tante persone che pure si sentono vicine agli animali, attente ai loro bisogni. Mi chiamo Massimo Raviola, sono un medico veterinario laureato nel 1991 all'Università di Torino e con un master in bioetica, sempre a Torino, nel 2008. Pratico ormai da 27 anni a libera professione, sempre nella mia città, nella Clinica Veterinaria Europa. Oggi, dopo alcune puntate in cui vi ho parlato appunto di alcune storie di miei pazienti, ho deciso di parlarvi proprio su come è nato questo libro. Le prime riflessioni critiche riguardo alle anomalie relative al concetto di razza dei nostri animali cominciarono ad arrivare già ai primissimi anni del mio lavoro, o forse addirittura ancora durante l'università, quando studiavo la tassonomia, ovvero la classificazione degli animali, nel corso di zoologia notai la prima anomalia. Il termine in assoluto più utilizzato per classificare un cane, razza, non esisteva, e nemmeno esisteva in nessun altro testo di classificazioni genetiche. Il dubbio quindi si incistò nella mia coscienza e si nascose lì in mezzo a tutti gli entusiasmi legati a questo lavoro. Passarono gli anni, il dubbio, nutrito dagli episodi patologici nei quali mi imbattevo, cominciò a farsi sentire sempre più forte. L'esperienza nel lavoro e i contatti con altri professionisti, soprattutto medici umani, mi fecero notare come tutta una serie di patologie normalmente occasionali e rare, quando si trattava di esemplari di razza, per noi veterinari diventavano sempre più la norma, a volte addirittura con percentuali del 100% dei casi. Inoltre cominciai a notare come solo in ambiente veterinario veniva ritenuto normale avere tutta una serie di malattie tipiche, ovvero presenti in percentuali alte in particolari gruppi di individui, le razze appunto. Mentre ad esempio nella malattia umana, a parte rari casi, piccole popolazioni isolate geograficamente, le patologie sono tali e come tali vengono studiati per prevenirle e risolverle. Forse non era poi tutto così normale. Allora ricominciai a studiare, ma trovai assai poco. Nella stragrande maggioranza dei casi, anche nei testi, era la cosa più normale del mondo parlare di razze, di cani e di gatti e delle loro belle patologie come se fosse la cosa più naturale possibile. Ma non lo è. E a pagare il prezzo sono gli animali, con le loro dolorose patologie e di conseguenza anche noi umani, che ci occupiamo di loro. Per il puro capriccio estetico di noi umani, che vogliamo il cucciolo di quel colore, di quella dimensione, di quella forma, magari esattamente uguale a quello che ha la diva cinematografica di turno, abbiamo totalmente dimenticato la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Chi ha agito attivamente per ottenere quelle bizzarrie, forzando il corpo degli animali, era perfettamente conscio dei rischi, o meglio, delle certezze genetiche dei disastri sanitari che avrebbe causato. Ciò non di meno è stato deciso di manipolare totalmente i nostri cani e gatti, tanto loro non si sarebbero mai lamentati, loro si fidavano di noi. Si potrebbe tranquillamente parlare di sadismo nei loro confronti. Ho deciso allora di farmi un po' di domande e di farle anche a voi. Ti sei mai chiesto da dove arrivano le razze dei cani e dei gatti? Quali sono i meccanismi che regolano la selezione razziale degli animali venduti? Che senso ha commercializzare degli esseri viventi? Cosa sta dietro questo mercato? Siamo davvero coscienti e informati su cosa stiamo facendo i nostri animali? Il mio libro, Che razza di bastardo, è il risultato di questi miei anni di studio e di esercizio sul campo nella professione veterinaria. Anni di ricerca sull'argomento, comprovati dai casi clinici dei quali mi sono occupato. E nonostante la rigidità scientifica alla quale ho voluto attenermi, anche per rendermi inattaccabile nei confronti dell'industria dei cucci di razza, il mio libro è scritto, spero, in modo che sia fruibile da tutti, anche da chi di materie scientifiche poco ne mastica. Il mio obiettivo è quello di stimolare un dibattito tra tutti sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla moda dei cuccioli di razza. Se sono riuscito nel mio intento, me lo direte poi voi. E se avete voglia di approfondire l'argomento, il libro, che è edito da L'età dell'acquario, è disponibile nelle principali librerie e sulle principali piattaforme online. E se poi avete voglia di scrivermi e fare due chiacchiere, mi troverete su Facebook alla pagina Che razza di bastardo. Buona giornata. Asking for what makes noise. It's ringing in my ears. notizia, che sembra positiva, viene dagli Stati Uniti, in particolare dalla California, stato nel quale dal 2023 saranno vietate sia la vendita sia la produzione di prodotti che contengono pellicce animali. Non si tratta di un divieto assoluto, a dire il vero. Sono esclusi dal provvedimento sia i prodotti in pelle, sia quelli con uso di pellicce che siano però realizzati per motivi religiosi. Il governatore Gavin Newsom è tuttavia convinto che si tratti di un provvedimento avanzato, una delle leggi più stringenti, sostiene, a difesa degli animali. Newsom annuncia anche un pacchetto di norme importanti per mettere fine, parole sue, al crudele destino degli animali. Non si parla però in questo provvedimento né di allevamenti intensivi né di sperimentazione scientifica. Fra le norme più importanti, annuncia il governatore, c'è il divieto di utilizzo della maggior parte degli animali nei circhi. La legge della California alla fine sembra meno avanzata di quel che si sostiene, ma è un passo nella buona direzione, per quanto molto timido. E tuttavia è quanto basta perché la Lega Antivivisezione chiede al governo italiano di prendere esempio. In una società in continua evoluzione, dice la LAV, in cui le più lungimiranti fra le aziende della moda sono passate già al fur free, cioè alle produzioni senza pellicce, con il plauso di milioni di consumatori, in Italia è ancora consentito allevare animali per farne pellicce. LAV chiede al governo, al Parlamento, di approvare subito le proposte di legge bloccate da anni. Vedremo che ne sarà di queste proposte, ma al momento non sono all'ordine del giorno. Chiudiamo con una citazione celebre, un passo da Isaac Bashevis Singer, il grande scrittore ebreo in lingua yiddish al quale abbiamo accennato durante la puntata. È un passo tratto dal racconto L'uomo che scriveva lettere. La situazione è quella della morte di una topolina, alla quale il suo compagno umano si rivolge così. Che ne sanno di quelli come te gli studiosi, i filosofi, i leader di questo mondo? Si sono convinti che l'uomo, il peggior trasgressore di tutte le specie, sia il vertice della creazione. Tutti gli altri esseri viventi sono stati creati unicamente per procurargli cibo e pellame, per essere torturati e sterminati. Nei loro confronti tutti sono nazisti. Per gli animali Treblinka dura in eterno. Each of us is born alone. Per questa settimana è tutto, vi ricordiamo di visitare il nostro sito restiamoanimali.it e i nostri profili sui social network. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, formata da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta. Stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.